Sapeva che le parole a volte possono essere perfino più forti dei proiettili. Con la solidarietà, con l'esempio quotidiano, la mafia poteva essere sconfitta. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio. Quando viene trovato il suo corpo, gli inquirenti pensano ad una vendetta di spacciatore di droga, ma non è così. L'omicida si chiama Salvatore Grigoli. È giovane, ma conosce già i segreti delle armi corte e lunghe. Un killer della mafia, 40 omicidi. La sera del 15 settembre del 93, Grigoli non è da solo. Nel comando, oltre a lui, Gaspare Spatuzza, Antonino Mangano, Luigi Giacalone, Cosimo Lonigro, saranno tutti condannati all'ergastolo. Esattamente come i mandanti, i fratelli Graviano. Nella requisitoria finale del processo di primo grado, il 28 febbraio del 98, il pubblico ministero Matassa propone un interessante parallelo ai giudici della Corte d'Assise. Dopo l'omicidio, dice, gli assassini rubarono il borsello della vittima e si divisero le marche della patente. Singolare assonanza con ciò che è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, dopo la crocifissione Cristo. Si divisero le sue vesti. Ma questo Grigoli, Spatuzza e i loro complici non potevano saperlo. La morte di Don Puglisi è avvenuta in una piazza cittadina, alla luce del sole. Era quello che Padre Pino chiedeva sempre ai capi mafia durante le sue omelie. Venite avanti, alla luce del sole. Così Roberto Faenza ha deciso di intitolare il suo ultimo film. Don Puglisi era un personaggio, un uomo che aveva qualcosa di alto da perseguire nella sua vita, aveva degli ideali per i quali era pronto a lasciare la vita, cioè era pronto anche ad andare incontro alla morte, ed è stato un uomo che durante la vita nessuno sapeva chi era, nessuno sapeva che cosa faceva. Ecco, questo film non è soltanto un tributo a questo tipo di uomo, ma è anche un, come dire, un rispolverare la memoria attorno a nostri, ai nostri uomini, ai nostri che noi poi definiamo eroi, però purtroppo li definiamo eroi quando li ammazzano. Ecco, questo è un po' il limite del nostro paese. Ma io penso che oggi il problema della criminalità organizzata è quanto mai attuale, è un po' come un sommergibile che gira nelle acque, non lo vediamo, però c'è. E credo che un film come questo abbia l'obiettivo di rianimare questo discorso, questo dibattito attorno alla mafia che è stato sopito, è stato abbandonato ingiustamente dai media e probabilmente è molto più forte oggi di quanto non fosse 10 anni fa, quando ammazzavano, sparavano e seminavano stragi. Più forte proprio perché non ha più bisogno di premere il grilletto. Ma certamente Don Puglisi era un isolato, non soltanto perché lo Stato non lo proteggeva, ma forse neanche la Chiesa lo comprendeva completamente, il lavoro che stava eseguendo, stava portando avanti, soprattutto con questi ragazzi. Però secondo me addebitare allo Stato la responsabilità di non difendere i propri uomini è un modo anche per deresponsabilizzare tutti noi, cioè noi siamo lo Stato, noi facciamo parte dello Stato, se ci fosse stata gente come noi più vicina a Don Puglisi probabilmente non sarebbe stato ucciso così come è accaduto per Falcone, per Borsellino. Loro per primi dicevano che non si può combattere la mafia da soli, da isolati, bisogna avere il consenso, perché Don Puglisi non era uno che faceva le cose per conto suo, era uno che lottava per un mondo migliore di cui tutti noi avremmo avuto un beneficio. Ecco, noi non abbiamo fatto abbastanza per lui, lui ha fatto molto per noi. Quando è morto, Padre Pino non era un volto noto come tanti preti di oggi. Non aveva un viso telegenico, non amava la popolarità, ma aveva una missione importante: liberare la sua gente. Il centro giovanile che aveva creato poco prima di morire oggi è frequentato da centinaia di ragazzi. Altri due ne sono stati fondati in altri quartieri a rischio di Palermo. E mentre il suo martirio è stato ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa ed è in corso la causa per la sua beatificazione, a Brancaccio e molti come Domenico De Lisi hanno imparato a camminare a testa alta. Puglisi, ecco, paragonava la nascita del centro come una piccola e gracile piantina, però diceva col tempo si evolverà, questa piantina farà i suoi rami e diventerà un albero. Ecco, adesso il centro, diciamo,